Capitolo 9. Ma le privazioni, o piuttosto le durezze della vita di Lockwood, diminuirono. Si avvicinava la primavera, anzi era ormai quasi giunta. Il gelo dell'inverno era cessato, le nevi si scioglievano e i venti freddi avevano meno forza. I miei poveri piedi, gonfi e piagati dall'aria tagliente del gennaio, cominciavano a guarire alle tiepide brezze dell'aprile e non zoppicavo più. Le notti e le mattinate non ci ghiacciavano più il sangue nelle vene con la loro artica temperatura e l'ora di ricreazione in giardino non era più una sofferenza, anzi, quando splendeva il sole era persino piacevole e divertente. Sulle zolle spoglie delle aiole già verzicava l'erba e ogni giorno si faceva più alta, come se di notte la speranza l'attraversasse, lasciandovi ogni mattino tracce sempre più visibili del suo passaggio. Tra le foglie facevano capolino i primi fiori, spuntavano i bucaneve, il croco, le purpure violacciocche, le viole del pensiero dagli occhi d'oro. Il giovedì pomeriggio, che era giorno di mezza vacanza, ci conducevano a passeggio e trovavamo fiori anche più belli sull'orlo dei sentieri tra le siepi. Scopersi allora che oltre l'alto recinto irto di punte del nostro giardino c'erano concessi piaceri e godimenti illimitati soltanto dal lontano orizzonte. Questi piaceri consistevano nella vista di una valle spaziosa, ricca di verde e di ombra, cui facevano corona alte cime dal nobile profilo, in un limpido ruscello pieno di pietre nere e di risucchi scintillanti. Come mi era parsa diversa quella scena, quando l'avevo vista sotto il plumbeo cielo invernale, intirizzita dal gelo di neve, quando densi vapori freddi come la morte vagavano spinti dai venti orientali su quelle cime rosate, e calavano a valle per confondersi con la nebbia bianchiccia del ruscello. Il ruscello stesso, nella brutta stagione, era un torrente torbido e impetuoso che usciva dagli argini, riempiendo l'aria di un sordo brontolio, spesso reso furioso dalla pioggia battente o da una tormenta di neve. Quanto al bosco, lungo le sue rive, non era che una massa di forme scheletriche. Aprile cedette il passo a maggio, e fu un maggio limpido e sereno. Ogni giorno il cielo era azzurro, il sole risplendeva e tiepide brezze spiravano da ovest o da sud. La vegetazione si faceva robusta e rigogliosa e Lockwood scioglieva le sue trecce, si rivestiva tutta di verdura e di fiori. Le querce, gli olmi, i frassini erano restituiti a vita maestosa. La vegetazione boschiva cresceva fitta fin negli intimi recessi, innumeri qualità di muschio ne coprivano i botri e una profusione di margheritine stendeva sul terreno un tappeto dorato. Dove l'ombra era più densa, ho visto il loro pallido splendore disseminare l'erba di un aureo luccichio. Godevo spesso e appieno di tutte queste bellezze, libera, incontrollata e quasi sempre sola. Ma bisogna ora che spieghi per quale motivo a me fossero concesse questa gioia e questa libertà del tutto insolite. Non ho forse descritto una regione molto bella e amena parlando di Lockwood come di un luogo situato tra i boschi e le colline e bagnato da un corso d'acqua? Bella, sì, certamente, ma salubre o meno questa è un'altra questione. La valle boschiva ove si trovava Lockwood era la culla delle nebbie e delle malattie che le nebbie portano con sé. Con la primavera anch'esse ritornarono, penetrarono nell'asilo delle orfane e con il loro alito sparsero il tifo nelle aule affollate e nei dormitori. Così, prima che giungesse maggio, la scuola si trasformò in un ospedale. La denutrizione e i raffreddori trascurati avevano predisposto la maggior parte degli alunni a infezioni e malattie e su 80 ragazze 45 furono colpite dal tifo. Le lezioni vennero interrotte, la disciplina si allentò e alle poche educande ancora sane venne concessa quasi completa libertà perché il medico insisteva sulla necessità di molto esercizio fisico per mantenerle in salute. Ma anche se così non fosse stato, nessuno aveva più tempo di sorvegliarci e di tenerci a freno. Tutte le cure della signorina Temple erano dedicate alle malate e la viveva nell'infermeria e non ne usciva che per concedersi qualche ora di riposo durante la notte. Le maestre erano occupate tutto il giorno a far valigie e ad attendere agli altri preparativi per la partenza di quelle alunne fortunate che avevano parenti o amici disposti a togliere da quel centro di contagio. Alcune, già minate, erano tornate a casa soltanto per morirvi. Altre spirarono a Lockwood e furono sepolte in fretta e furia, la natura della malattia impedendo ogni indugio. Mentre dunque l'epidemia si era insediata a Lockwood e la morte vi si introduceva di frequente, mentre tra le sue mura regnavano la desolazione e la paura, mentre dalle sue stanze e dai suoi corridoi uscivano esalazioni da ospedale e le medicine e le disinfezioni lottavano invano contro gli effluvi della morte, l'allegro maggio splendeva senza nubi sopra le colline serene e i boschi pittoreschi. Anche il giardino era coperto di fiori, gli agrifogli si erano fatti alti come alberi, i gigli erano sbocciati e fiorivano le rose, i tulipani, folti bordi di salvia rosata e di margherite cremisine correvano torno torno alle aiole. E mattino e sera le rose canine spandevano nell'aria il loro profumo di spezie e di mela. Ma tutti questi fragranti tesori erano inutili per la maggior parte delle allieve di Lowood, servivano soltanto di quando in quando per intrecciare una corona da posare su una bara. Ma io e le altre che continuavamo a star bene, godevamo appieno delle bellezze del paesaggio e della stagione, ci lasciavano scorrazzare per i boschi da mattina a sera come zingare, facevamo quello che volevamo, andavamo dove ci spingeva il nostro capriccio e vivevamo meglio. Il signor Brocklehurst e la sua famiglia non si accostavano più a Lowood ora. Il controllo delle spese domestiche era cessato, la bisbetica dispensiera era partita, cacciata via dalla paura del contagio, e quella che la sostituì e che aveva diretto il dispensario di Lowton, non conoscendo gli usi della casa, provvedeva alla cucina con maggior liberalità. Inoltre, eravamo in meno a mangiare, le malate essendo a dieta, e così le porzioni per noi sane erano più abbondanti. Quando non c'era tempo per cucinare, ciò che accadeva spesso, ci distribuivano un bel pezzo di pasticcio freddo, una grossa fetta di pane e formaggio, e andavamo a far colazione nel bosco, dove ognuna sceglieva il suo angolo prediletto per consumare la lauta porzione. Io mi sedevo di solito su una larga pietra liscia che si alzava bianca e asciutta proprio nel mezzo del ruscello e che bisognava raggiungere a guado con i piedi scalzi. Su quella pietra ci si stava comodamente in due ed io vi andavo sempre con Marianne Wilson, che era in quel tempo la mia compagna preferita. Era una ragazza acuta e osservatrice e mi piaceva non soltanto per il suo spirito e la sua originalità, ma anche per le sue maniere. Di qualche anno maggiore di me, conosceva meglio il mondo ed era in grado di raccontarmi molte cose che mi divertivano. Con lei la mia curiosità era sempre soddisfatta, inoltre ella era indulgente verso i miei difetti e mi lasciava parlare a piacimento. Lei aveva disposizione per la narrativa, io per l'analisi. A lei piaceva informare, a me interrogare, di modo che ci intendevamo pienamente e ricavavamo reciproco diletto, se non molto profitto, dalla nostra compagnia. Ma dov'era frattanto Helen Burns? Perché non trascorrevo con lei quelle dolci giornate in libertà? L'avevo forse dimenticata? O ero così spregevole da essermi stancata della sua nobile e pura compagnia? La Marianne Wilson che ho citato era certo inferiore a Helen, non sapeva che raccontare storie divertenti e stimolarmi con le sue risposte a indulgere a qualsiasi pettegolezzo mi pungesse la lingua, mentre Helen, se di lei ho fatto un ritratto fedele, accendeva il desiderio di tutto ciò che è nobile ed elevato in coloro che avevano il privilegio di esserle amici. Così è, lettrice, e io lo sapevo. Lo capivo, e sebbene sia un essere imperfetto, con molte pecche e poche qualità, non mi ero mai stancata di Helen Burns. Non avevo mai smesso di nutrire per lei un affetto tenero, profondo e rispettoso, quale il mio cuore non aveva mai provato. Come avrebbe potuto essere altrimenti, quando Helen, in ogni momento e in ogni circostanza, mi dimostrava una fedele e costante amicizia che nessun malumore, nessuna irritazione venivano mai a turbare. Ma al presente Helen era malata. Da molte settimane l'avevano trasferita lontana da me. Io non so quale stanza del piano superiore. Mi avevano detto che non si trovava però nell'infermeria con le altre malate, perché il suo male non era il tifo, bensì la consunzione. Ed io, nella mia ignoranza, per consunzione intendevo una leggera malattia che le cure e un po' di pazienza avrebbero messo in fuga. Questa mia convinzione fu avvalorata dal fatto che nei pomeriggi tiepidi e soleggiati la vidi qualche volta scendere e uscire in giardino accompagnata dalla signorina Temple. Tuttavia, anche allora non mi fu permesso di accostarmi a lei e di parlarle. L'avevo vista dalla finestra della scuola e non distintamente, perché era tutta avvolta in scialli e seduta in disparte sotto il porticato. Una sera, al principio di giugno, mi ero attardata nel bosco insieme a Marianne. Come al solito ci eravamo separate dalle altre, spingendoci così lontano che avevamo smarrito la strada. Per ritrovarla dovemmo chiedere aiuto a un guardiano di porci che abitava con la moglie in una capanna solitaria. Quando giungemmo a casa, la luna era già alta. Un cavallo che riconoscemmo per quello del medico era fermo al cancello del giardino. Marianne osservò che vi doveva essere una malata grave se avevano chiamato il signor Bates, io in ora così tarda, ed entrò in casa. Io invece mi fermai in giardino per piantare nella mia aiola qualche radice portata dal bosco, che sarebbe morta se non l'avessi interrata sino all'indomani. Terminato questo lavoro, rimasi là fuori ancora un po'. I fiori sotto la rugiada sprigionavano un dolce profumo ed era una bella sera tiepida e serena. L'orizzonte, ancora imporporato, prometteva un'altra giornata di bel tempo e a occidente la luna saliva maestosa nel cielo. Osservavo tutto ciò e ne godevo come può goderne un bambino quando mi trovai a fare una considerazione per me del tutto nuova. Come deve essere triste giacere a letto malata in pericolo di vita. Questo mondo è bello e sarebbe orribile doverlo abbandonare per andarsene chissà dove. Allora la mia mente fece il primo sforzo per capire ciò che aveva imparato sul cielo e sull'inferno, e per la prima volta retrocedette spaurita. Per la prima volta, guardandosi attorno, si vide circondata da un abisso impenetrabile. Non capiva, non sentiva che una cosa, il presente, tutto il resto era una nube informe, un vuoto precipizio, e fremette al pensiero di vacillare, di cadere in quel caos. Mentre ero assorta in queste nuove riflessioni, sentii aprirsi il portone. Il medico ne uscì, seguito da un'infermiera. Dopo che l'ebbe visto montare a cavallo e allontanarsi, la donna rientrò e stava per chiudere la porta quando la raggiunsi correndo. «Come sta Ellen Burns?» le domandai. «Molto male», mi rispose. «È venuto per lei, signor Bates?» «Sì. E che cosa ha detto?» «Che Ellen non rimarrà qui per molto tempo. Se avessi udito quella frase il giorno prima, avrei creduto che Ellen fosse in procinto di tornare da suo padre nel Northumberland». Senza sospettare che annunciava invece la sua prossima fine. Ma ora ne intesi subito il vero significato. Mi fu subito chiaro che Ellen stava vivendo i suoi ultimi giorni in questo mondo e che tra poco sarebbe entrata nella regione degli spiriti, seppur quella regione esisteva. Il primo sentimento fu di orrore. Poi mi sentii stringere il petto da un dolore acuto e provai il desiderio, anzi il bisogno di vederla. Chiesi in quale stanza fosse. In quella della signorina Temple, disse l'infermiera. Posso andare da lei? No, piccina, non è possibile. E poi adesso è l'ora di entrare. Prenderai la febbre se resti fuori quando cade la rugiada. L'infermiera chiuse il portone ed io entrai dalla porta laterale che conduceva nella sala di studio. Appena in tempo perché suonavano le 9 e la signorina Miller ci chiamava per mandarci a letto. Potevano essere le 11 e io non avevo ancora preso sonno. Dal silenzio in cui era immerso il dormitorio capii che tutte le mie compagne dormivano profondamente. Così scesi dal letto piano piano, mi infilai il vestito sopra la camicia da notte e sgattaiolai fuori a piedi scalzi per raggiungere la stanza della signorina Temple. Ma conoscevo la strada e il chiaro di luna che entrava dalle finestre mi permise di procedere senza intralci. Un odore di canfora e di aceto bruciato mi avvertì che ero vicina all'infermeria. Affrettai il passo per timore che l'infermiera di notte mi scoprisse. Non volevo che mi rimandassero a letto perché dovevo vedere Ellen, dovevo abbracciarla ancora una volta prima che morisse, dovevo scambiare con lei un ultimo bacio, un'ultima parola. Dopo aver sceso una scala, attraversato una parte della casa a pian terreno ed essere riuscita ad aprire e richiudere due porte senza far rumore, salii un'altra scala e in cima a quella mi trovai proprio di fronte alla camera della signorina Temple. Un filo di luce usciva dalla serratura e di sotto la porta. Tutto era silenzio. Avvicinandomi mi accorsi che la porta era socchiusa, probabilmente per lasciar passare un poco d'aria fresca nella stanza dove la malattia appesantiva l'atmosfera. Senza esitare, tremante di sgomento e di impazienza, spinsi la porta e guardai dentro, cercando Ellen con gli occhi e temendo di trovarla già morta. Accanto al letto della signorina Temple ve n'era un altro più piccolo, coperto da un cortinaggio bianco. Vidi la forma di un corpo sotto le coperte, ma il viso era nascosto. L'infermiera che avevo incontrato in giardino dormiva su una poltrona. Una candela non smoccolata ardeva sulla tavola. La signorina Temple non c'era. Seppi poi che era stata chiamata nell'infermeria al capezzale di una ragazza in delirio. Mossi qualche passo e mi fermai accanto al lettuccio. Stavo già per scostare la cortina, ma rabbrividendo all'idea di scorgere un cadavere, prima preferii parlare. «Helen!» bisbigliai. «Sei desta!» Ella si mosse, scostò il cortinaggio e io vidi il suo volto pallido, emaciato, ma tranquillo. Mi parve così poco cambiata che i miei timori si dissiparono subito. «Sei proprio tu, Jane?» mi domandò con la sua voce dolce. «Non morirà», pensai. «Si ingannano. Se stesse per morire non sarebbe così calma». Mi accostai al letto e l'abbracciai. La sua fronte era fredda e così pure le guance scarne e le mani esangui, ma sorrideva come un tempo. «Perché sei venuta, Jane? Sono le 11 passate. Le ho sentite suonare poco fa. Volevo vederti, Ellen. Mi hanno detto che sei molto malata e non riuscivo a dormire prima di averti parlato. Allora sei venuta per dirmi addio? Arrivi giusto in tempo, credo. Vai via, Ellen. Torni a casa tua? Sì, a casa. Alla mia ultima casa, alla mia eterna casa. Helen, no! La voce mi mancò e mentre cercavo di reprimere i singhiozzi, Helen fu assalita da un accesso di tosse, ma l'infermiera non si svegliò. Passato l'accesso, Helen giacque esausta per qualche minuto, poi mormorò: Jane, sei scalza, sdraiati qui, copriti con il piumino. Ubbidii ed ella mi pose un braccio intorno alle spalle mentre mi raggomitolavo al suo fianco. Dopo un lungo silenzio, sempre bisbigliando, mi disse, come a conclusione di un suo intimo pensiero: Sono felice, Jane, e quando ti diranno che sono morta, cerca di non soffrire, non c'è motivo di affliggersi. Tutti dobbiamo morire un giorno e la malattia che mi uccide non è dolorosa, è dolce, è lenta e il mio spirito è calmo. Nessuno mi piangerà molto, non ho che mio padre al mondo, ma si è riammogliato da poco e la mia scomparsa non sarà un vuoto per lui. Morendo giovane sfuggo a grandi sofferenze perché non ho né le qualità né le attitudini necessarie per farmi strada facilmente nel mondo e avrei sempre sbagliato. Ma dove te ne vai, Helen? Lo vedi forse? Lo sai? Ho fede, credo. So che vado da Dio. Ma dov'è Dio e che cos'è? Il mio creatore, il tuo, egli non distrugge ciò che ha creato. Io ho fede nel suo potere e confido nella sua bontà. Conto le ore che ancora mi separano dal momento solenne in cui sarò restituita a lui e in cui egli mi sarà rivelato. Allora tu sei certa, Helen, che il cielo esiste e che le nostre anime possono raggiungerlo dopo la morte? Sono certa dell'esistenza di una vita futura. Credo che Dio sia buono e affido a lui senza timore la parte immortale di me stessa. Iddio è il padre mio, l'amico mio. Io l'amo e credo che egli mi ami. Ti rivedrò, Helen, quando sarò morta? Sì. Verrai tu pure nella stessa regione felice e sarai ricevuta dallo stesso Padre Onnipotente e Universale, ne sono certa, cara Jane. Posi di nuovo una domanda, ma questa volta a me stessa. Dov'è questa regione? Esiste davvero? E mi strinsi più forte a lei, che mi era più cara che mai, che non potevo lasciar partire. Nascosi il viso nella piega del suo braccio ed ella mi disse, con la sua voce più dolce, come sto bene qui. Ma quell'ultimo accesso di tosse mi ha stancata, vorrei dormire. Tu però non lasciarmi, Jane. Mi fa piacere averti qui accanto a me. Rimarrò, Helen, cara, nessuno mi toglierà di qui. Hai abbastanza caldo, cara? Sì. Buonanotte, Jane. Buonanotte, Helen. Ci abbracciammo e poco dopo dormivamo entrambe. Quando mi destai, era giorno. Qualche cosa di insolito mi aveva svegliata. Apersi gli occhi e mi accorsi di essere nelle braccia dell'infermiera che attraverso il corridoio mi riportava in dormitorio. Non fui rimproverata per aver lasciato il mio letto. I grandi avevano da pensare ad altro e nessuno diede risposta alle domande che continuavo a fare, ma 1 o 2 giorni dopo appresi che la signorina Temple, ritornando all'alba in camera sua, mi aveva trovata addormentata nel lettino con il viso sulla spalla di Helen e le braccia attorno al collo di lei. Io dormivo ed Helen era morta. Ella è sepolta nel cimitero di Brokenbridge. Per 15 anni la sua tomba fu coperta soltanto da un cumulo di terra erbosa, ma ora una lastra di marmo grigio la distingue e sotto il suo nome è incisa la parola Resurgam. Capitolo 10. Fin qui ho narrato con molti particolari gli avvenimenti della mia esistenza poco varia. Ai primi 10 anni della mia vita ho dedicato un numero quasi uguale di capitoli. Ma questa non sarà una vera autobiografia e mi sono proposta di fare appello alla memoria soltanto nei punti in cui so che essa mi può fornire risposte interessanti. Per questo passerò quasi sotto silenzio 8 anni della mia esistenza. Poche righe basteranno a collegare i fatti di quel periodo con gli avvenimenti che seguirono. Quando l'epidemia di tifo ebbe compiuto la sua opera di devastazione, Hallowood a poco se ne allontanò. Ma non prima che la virulenza del contagio e il numero delle sue vittime avessero attratto sulla nostra scuola l'attenzione pubblica. Fu fatta un'inchiesta sulle origini del male e gradualmente vennero alla luce molti fatti che suscitarono la più viva indignazione. La malsana località nella quale era situato l'istituto, la quantità e la qualità del vitto, l'acqua fetida e amara usata nella preparazione del cibo, le vesti insufficienti e l'alloggio disagevole, tutto ciò divenne di conoscenza pubblica. E questa scoperta, se ebbe conseguenze mortificanti per il signor Brockenhurst, andò però a tutto vantaggio dell'istituto. Molte persone ricche e benefiche della contea persero una generosa sottoscrizione che permise di costruire una nuova sede con criteri migliori e in posizione più salubre. Furono stabiliti i nuovi regolamenti, arricchito il corredo personale, migliorato il vitto e i fondi della scuola vennero amministrati da un comitato. Il signor Brocklehurst, che per la sua ricchezza e le sue parentele non poteva essere del tutto destituito, serbò al posto di tesoriere, ma per il disimpegno dei suoi doveri fu associato a due gentiluomini di vedute più larghe e più filantropiche. Nel suo ufficio di ispettore, inoltre, era aiutato da persone capaci di mettere d'accordo la ragione con la severità, un tenore di vita confortevole con l'economia e la bontà con la giustizia. La scuola, così migliorata, diventò col tempo un istituto veramente utile e nobile. Dopo questa rigenerazione, io rimasi tra le sue mura per altri 8 anni, 6 come alunna, 2 come insegnante, e in entrambe queste posizioni potei rendere giustizia al valore e all'importanza dell'istituto. Durante quegli 8 anni, la mia vita scorse uniforme, ma non triste, perché lavoravo molto. Avevo a mia disposizione i mezzi per acquistare una eccellente istruzione ed ero stimolata dall'amore per gli studi, e per alcuni di essi in particolare. Dal desiderio di distinguermi in tutto, oltre che dal piacere che provavo nel rendere contente le mie maestre, specie quelle che amavo. Così trassi il massimo profitto dai vantaggi che mi erano offerti. A poco giunsi ad essere la migliore educanda della prima classe e poi fui nominata maestra. Per 2 anni adempii con zelo a questo ufficio, ma al termine di quel periodo qualche cosa mutò in me. Attraverso tutti i cambiamenti di cui ho parlato, la signorina Temple aveva continuato a dirigere la scuola e così, come dovevo a lei la maggior parte delle mie cognizioni, al tempo stesso la sua amicizia e la sua compagnia erano state per me una continua consolazione. Ella mi aveva tenuto luogo di madre, di istitutrice e negli ultimi tempi di compagna. Ma allora si sposò e partì con il marito, un pastore, un uomo eccellente, quasi degno di una moglie come lei, per una contea lontana. E di conseguenza io la perdetti. Dal giorno della sua partenza non fui più la stessa. Con lei se n'era andata quella sensazione di sicurezza e di calore, quella comunione di idee, quei ricordi che di Lowood avevano fatto quasi una casa per me. Mi ero imbevuta di una parte della sua natura e avevo preso molte sue consuetudini. I miei pensieri erano più armoniosi, i sentimenti meglio regolati albergavano in me. Ero fedele all'ordine e al dovere, ero tranquilla e mi credevo felice. Agli occhi altrui e di solito anche i miei appariva un carattere disciplinato e sottomesso. Ma il destino, sotto l'aspetto del reverendo Nasmyth, venne a porsi tra me e la signorina Temple. Poco dopo la cerimonia nuziale la vidi salire in abito da viaggio in una carrozza di posta e rimasi a guardare la vettura che saliva la collina fino a quando non scomparve dietro il ciglio. Allora mi ritirai in camera mia e vi trascorsi in solitudine la maggior parte di quel giorno di vacanza concessomi in onore di quelle nozze. Passeggiai per la camera quasi tutto il tempo. Mi pareva d'essere tutta presa dal rimpianto della perdita subita e dal pensiero di come riempire quel vuoto. Ma quando smisi di riflettere, e levando gli occhi, mi accorsi che il pomeriggio era trascorso e la sera già avanzata, un'altra scoperta fiorò in me, e cioè che in quelle ore io avevo subito una trasformazione. Il mio spirito si era spogliato di tutto ciò che aveva preso in prestito dalla signorina Temple, o piuttosto ella aveva portato via con sé l'atmosfera serena che respiravo quando mi era al fianco. Ed ora, ritrovandomi nel mio elemento naturale, sentivo muoversi nuovamente in me le antiche passioni. Non era il sostegno che mi veniva a mancare, ma piuttosto lo scopo dei miei sforzi. Avevo la forza di essere calma, ma la ragione di esserlo non esisteva più. Per anni il mio mondo era stato Lowood, la mia esperienza si era formata entro i limiti delle regole e dei sistemi dell'istituto. Ora mi ricordavo che il mondo era grande e che un vasto e vario campo di speranze e di timori, di sensazioni, di eccitamenti attendeva coloro che avevano il coraggio di avanzare su quella distesa, di cercare tra i pericoli di cui era irta la vera conoscenza della vita. Andai alla finestra, l'aprii e guardai fuori. Qui erano le due ali dell'edificio, là il giardino, poi le mura di Lowood e più lontano le colline che chiudevano l'orizzonte. Gettai uno sguardo rapido su tutti gli altri elementi della scena per poi fermarmi su quelli più lontani. I picchi azzurrini erano quelli che volevo sorpassare. La regione che essi racchiudevano con le sue rocce e le sue lande d'erica mi sembrava una prigione, una terra d'esilio. Seguii con gli occhi la strada bianca che si snodava ai piedi di una montagna e quindi si perdeva in una gola tra due colli. Come desideravo seguirla più lontano. Ripensai al giorno in cui avevo viaggiato su quella stessa strada in cui avevo disceso il versante di quel colle mentre infittiva il buio della sera. Mi sembrava che fosse trascorso un secolo dal giorno in cui ero arrivata a Lowood con la diligenza e da allora non me ne ero mai allontanata. Vi avevo trascorso anche le vacanze, perché la signora Reed non mi aveva mai fatta tornare a Gateshead e né lei né alcun membro della sua famiglia era mai venuto a visitarmi. Non avevo mai avuto contatti né per lettera né a voce con il mondo esterno. Le regole, i doveri, le abitudini, le nozioni e le voci, le figure, le frasi, i costumi, le preferenze, le antipatie di un collegio. Ecco tutto quello che conoscevo della vita. Ed ora mi sentivo che non mi bastava. Mi stancai in un pomeriggio della metodica esistenza che conducevo da 8 anni. Desideravo la libertà, anelavo ad essa e pregai per ottenerla. Ma mi parve che la brezza alzatasi in quel momento disperdesse ogni parola della mia preghiera. Allora rinunciai a quella speranza e formulai una più umile domanda. Implorai un cambiamento, uno stimolo, ma anche quella supplica parve perdersi nello spazio e quasi disperata gridai: Accordatemi almeno una nuova servitù! In quel momento la campana che annunciava l'ora della cena mi chiamò al piano terreno. Non potei riprendere il corso interrotto dei miei pensieri sino al momento di andare a letto, ma anche allora una maestra con la quale dividevo la mia camera mi distrasse dall'argomento che mi stava tanto a cuore, dilungandosi in chiacchiere. Non vedevo l'ora che il sonno la riducesse a silenzio, poiché mi sembrava che se soltanto avessi potuto riflettere un poco sull'idea balenatami mentre stavo alla finestra, la mente mi avrebbe certo suggerito qualche consolante soluzione. Finalmente la signorina Grice cominciò a russare. Era una gallese tozza e robusta e fino allora quelle disarmoniche sonorità nasali mi avevano dato una gran noia, ma quella sera ne accolsi le prime note con piacere. Ero al sicuro da ogni interruzione e i miei pensieri fino allora repressi si rianimarono subito. Una nuova servitù è una parola che deve avere un significato per me, pensavo. Lo so perché non suona troppo dolce al mio orecchio, non è come dire libertà, svago, felicità, parole deliziose ma vane per me. E così fuggitive che ascoltarne il suono è soltanto una perdita di tempo. Servitù, invece, è una parola positiva, significa qualcosa di reale. Ognuno può servire, l'ho fatto per 8 anni qui. Ora tutto quello che chiedo è di servire altrove. Potrò ottenerlo con la mia sola volontà. La cosa non è fattibile, sì, la mira non è poi così difficile. Se soltanto avessi una mente abbastanza fertile per escogitare i mezzi necessari. Mi misi a sedere sul letto sperando di stimolare la mia mente. Faceva freddo, mi gettai uno scialle sulle spalle e mi rimisi a pensare. Che cosa voglio? Una nuova occupazione? In una casa nuova? In mezzo a facce nuove? Tra nuove circostanze? Voglio soltanto questo perché sarebbe inutile desiderare di meglio. Come fa la gente per avere un posto nuovo? Ricorre agli amici, credo, ma io non ho amici. Molti altri, tuttavia, non hanno amici e sono costretti a cavarsela da sé. Qual è la loro risorsa? Non lo sapevo e non trovavo risposta alla mia domanda. Allora ordinai al mio cervello di suggerirmi una soluzione e subito. Esso prese a lavorare febbrilmente. Sentivo le tempie martellarmi, ma per circa un'ora brancolai in un caos di pensieri informi e i miei sforzi rimasero senza risultato. Agitata da quella vana fatica, mi alzai, camminai un momento per la stanza, aprii le tende e vidi qualche stella. Rabbrividendo di freddo, tornai a letto. Una fata benefica, durante la mia assenza, aveva certo posato sul mio cuscino la risposta tanto cercata, poiché mentre mi sdraiavo mi venne alla mente, senza sforzo, chi cerca occupazione lo faccia sapere, metta un avviso nell'araldo della contea. Ma come, io di avvisi non ne so nulla? Le risposte giungevano prontamente da sé, ora. Devi mettere l'annuncio e il denaro per pagarlo in una busta indirizzata all'editore dell'araldo. Alla prima occasione porterai la lettera alla posta di Lowton. Le risposte dovranno essere dirette a J.J.E. presso lo stesso ufficio postale. Circa 8 giorni dopo l'invio della lettera potrai tornare alla posta e se qualche risposta sarà arrivata, agirai a seconda del suo contenuto. Elaborai e rielaborai con cura lo schema della lettera e quando la mia mente l'ebbe assimilato e la sua forma fu ben chiara, mi addormentai soddisfatta. All'alba ero in piedi e prima che suonasse la campana della sveglia, il mio annuncio era già scritto e chiuso nella busta con l'indirizzo bello e pronto. Diceva così: Una signorina abilitata all'insegnamento, non ero forse maestra da 2 anni, desidera collocarsi presso una famiglia con figli al di sotto dei 14 anni. Pensavo che avendone io soltanto 18 fosse imprudente da parte mia assumermi l'educazione di ragazzi quasi miei coetanei. Ella è in grado di impartire tutte le nozioni normalmente inerenti a una buona educazione in inglese, oltre al francese, al disegno e alla musica. A quel tempo, lettrice, questo smilzo elenco di qualifiche aveva la probabilità di essere giudicato soddisfacente. Indirizzare le offerte a J.E., fermo posta, Lowton, Contea D. Questa lettera rimase chiusa tutto il giorno nel mio cassetto. Dopo il tè, chiesi alla nuova direttrice il permesso di recarmi a Lawton per sbrigare alcune commissioni per me e per qualche altra maestra. Il permesso mi fu subito accordato e io mi misi in cammino. Avevo da percorrere 2 miglia e la sera era umida, ma ancora chiara. Entrai in 2 o 3 negozi, impostai la lettera e tornai a casa sotto una pioggia dirotta, con le vesti inzuppate, ma il cuore leggero. La settimana che seguì mi parve lunga. Tuttavia, al pari di tutte le cose terrene, giunse anch'essa a suo termine. E verso il tramonto di una bella giornata autunnale mi misi di nuovo in cammino sulla strada di Lawton. Era una strada pittoresca, per un tratto seguiva il fiume e poi s'addentrava serpeggiando nella valle, ma quel giorno pensavo troppo alle lettere che potevano o non potevano aspettarmi nel borgo al quale ero diretta per avere occhi per il paesaggio. Il pretesto addotto questa seconda volta era di dovermi ordinare un paio di scarpe. Così, per prima cosa, mi recai dal calzolaio. E poi attraversai la via linda e tranquilla che conduceva all'ufficio postale. La direttrice era una vecchia signora con gli occhiali cerchiati di corno e i mezzi guanti neri. «Ci sono lettere per J.E.?» domandai. Ella mi guardò al di sopra degli occhiali, poi aperse un cassetto e vi rovistò a lungo, così a lungo che le mie speranze cominciavano a dileguare. Finalmente ne tolse una carta e dopo essersela tenuta davanti agli occhiali per 5 minuti buoni, me la porse attraverso il banco, accompagnando il gesto con un'altra occhiata scrutatrice e diffidente. Era per J.E. «Non c'è altro?» domandai. «Nient'altro», mi rispose, ed io misi in tasca la lettera e feci ritorno all'Howood. Non potei aprirla subito. Il regolamento mi imponeva di essere di ritorno per le 8 ed erano già le 7:30. Diversi doveri mi aspettavano al mio arrivo. Bisognava sorvegliare le ragazze durante l'ora di studio. Poi quel giorno spettava a me leggere le preghiere e accompagnare le alunne in dormitorio. Fatto questo, cenai con le altre maestre. Ma anche quando ci ritirammo nelle nostre camere avevo con me l'inevitabile signorina Grice. La candela era per 3/4 consumata e io tremavo all'idea che terminasse prima che la mia compagna avesse smesso di parlare. Per fortuna la cena sostanziosa che aveva consumato produsse su di lei un effetto soporifero ed ella russava già, mentre io non avevo ancora finito di svestirmi. La candela era ridotta a un mozzicone. Presi la lettera sigillata con l'iniziale F e la persi. Era breve. Se J.E., che martedì scorso ha fatto l'annunzio nell'Araldo della Contea D, possiede le cognizioni indicate e se è in grado di fornire informazioni soddisfacenti sia sul suo carattere che sulle sue capacità, le è offerto un posto presso una bambina minore di 10 anni, il salario di 30 sterline annue. J.E. dovrà inviare referenze, nome, indirizzo e tutte le indicazioni utili alla signora Fairfax Thornfield presso Millcote, Contea D. Esaminai a lungo quella lettera. La calligrafia, antiquata e piuttosto incerta, faceva supporre che lo scrivente fosse una signora attempata. Questo particolare mi riuscì gradito perché ero assillata dalla paura segreta di incappare in qualche tranello, agendo così da sola e di mia testa, e soprattutto volevo che i miei tentativi si concludessero in modo giusto ed onorevole. Volevo, insomma, che tutto fosse a regle. Ora, la presenza di una vecchia signora mi sembrava una garanzia. La signora Fairfax, me la figurai vestita di nero e con una cuffia vedovile, rigida forse, ma non scortese, un modello della vecchia rispettabilità inglese. Thornfield era certo il nome della sua casa, una casa linda e ordinata, senza dubbio, sebbene non mi riuscisse di immaginarla con precisione. Millcote, Contea D. Rispolverai i miei ricordi della carta d'Inghilterra. Sì, la vedevo, tanto la regione che la sua città. Rispetto alla remota contea nella quale risiedevo, era più vicina a Londra di 70 miglia e ciò costituiva un'attrattiva per me. Desideravo tanto andare dove vi fosse vita e movimento. Millcote era una grande città manifatturiera sulle rive del Lay, molto movimentata certamente. Tanto meglio, almeno sarebbe stato un cambiamento radicale. Non che la mia fantasia fosse molto attratta dall'idea di una selva di lunghi comignoli e di nubi di fumo, ma è probabile, mi dissi, che Thornfield sia un po' fuori città. In quel momento cade il piattino del candeliere e il lucignolo si spense. Il giorno dopo dovetti intraprendere altri passi. Non potevo più tenermi chiusi in petto i miei progetti, dovevo confidarli a qualcuno se volevo che riuscissero. Così, chiesto e ottenuto un colloquio con la direttrice durante la ricreazione pomeridiana, le dissi che avevo la prospettiva di una nuova occupazione per la quale mi si offriva il doppio del mio salario attuale. A Lowood percepivo soltanto 15 sterline all'anno. E la pregai di parlarne al signor Brocklehurst o a qualche altra persona del comitato e di appurare se mi avrebbero permesso di citare i loro nomi quali referenze. Ella cortesemente accettò di fare da mediatrice in quella faccenda e il giorno dopo ne informò il signor Brocklehurst, il quale disse che occorreva scrivere alla signora Reed, essendo ella la mia tutrice naturale. Così fu inviata una lettera a quella signora, la quale rispose che potevo fare come volevo, perché da molto tempo ella aveva rinunciato a interferire nei miei affari. Questa risposta fece il giro di tutti i membri del comitato e finalmente, dopo un'attesa che mi parve assai noiosa, mi venne dato formale permesso di migliorare la mia condizione, se lo potevo, con l'assicurazione che, essendomi io sempre comportata bene a Lockwood, sia come allieva che come maestra, mi avrebbero rilasciato anche un certificato in favore del mio carattere e delle mie capacità, firmato dagli ispettori dell'istituzione. Infatti, entro un mese all'incirca, ricevetti tale certificato, ne spedii una copia alla signora Fairfax e ricevetti la sua risposta, nella quale ella si diceva soddisfatta e fissava per 15 giorni dopo la data del mio arrivo a casa sua. Mi occupai dei preparativi per la partenza e quella quindicina passò in fretta. Non avevo un corredo molto ricco, anche se era adeguato ai miei bisogni, che un giorno, l'ultimo della mia permanenza a Lockwood, mi bastò per fare il baule. Lo stesso che avevo portato con me da Gateshead 8 anni prima. Il baule fu legato e munito del cartellino con la destinazione. Entro mezz'ora sarebbe venuto a prenderlo il vetturino che doveva trasportarlo a Loughton, dove io stessa mi sarei recata la mattina dopo di buon'ora per prendere la diligenza. Avevo spazzolato il vestito di panno nero che doveva servirmi per il viaggio, preparato il cappello, i guanti, il manicotto, ispezionato tutti i miei cassetti per assicurarmi di non avervi dimenticato nulla. Ed ora, non avendo altro da fare, mi sedetti cercando di riposare. Ma non ci riuscii, sebbene fossi stata in piedi tutto il giorno, non potevo star ferma, ero troppo eccitata. Una fase della mia vita si chiudeva quella sera, un'altra sarebbe cominciata il giorno dopo. Era impossibile dormire in quell'intervallo, avrei vegliato in preda a una febbrile agitazione fino a che il cambiamento si fosse effettuato. Signorina, mi disse un inserviente mentre camminavo su e giù per il corridoio come un'anima in pena. C'è una persona abbasso che desidera parlarle. Il vetturino, pensai, e senza far domande, corsi via. Stavo passando davanti alla porta socchiusa di un salottino interno, dove per solito si riunivano le maestre, diretta in cucina, quando una donna corse fuori da quella porta. È lei, ne sono sicura, l'avrei riconosciuta in qualsiasi luogo, esclamò la sconosciuta, prendendomi una mano e obbligandomi a fermarmi. Avevo davanti a me una donna vestita come una bambinaia elegante, matronale, ma ancora giovane, belloccia, con occhi e capelli neri e un incarnato molto vivo. Dunque, chi sono? Mi domandò, con una voce e un sorriso che mi parve riconoscere. Non mi avrà dimenticata del tutto, vero, signorina Jane? Un momento dopo ero tra le sue braccia e la coprivo di baci. Bessie, oh Bessie, Bessie! Non sapevo dire altro, mentre lei piangeva e rideva al tempo stesso. E così allacciate entrammo nel salottino. Accanto al caminetto acceso vidi un bimbo di circa 3 anni, in pantaloni lunghi e giacca a quadri. È mio figlio, disse subito Bessie. Allora sei maritata? Sì, da quasi 5 anni. Ho sposato Robert Leven, il cocchiere, e oltre a Bobby ho una bambina piccola che ho chiamato Jane. Non sei più a Gateshead? Sì, nella portineria. Il vecchio custode se n'è andato. E come stanno tutti? Parlami di loro, Bessie, ma prima siediti. E tu, Bobby, non vuoi venire sulle mie ginocchia? Ma Bobby preferì arrampicarsi in grembo alla mamma. Lei non si è fatta molto alta, signorina Jane, né molto robusta, continuò la signora Leven. Direi che non l'hanno trattata molto bene qui. La signorina Reed è più alta di lei di tutta la testa e Georgiana è robusta 2 volte tanto. Georgiana sarà bella, no? Molto bella. È stata a Londra l'inverno scorso con sua madre e tutti l'ammiravano. Un giovane lord si è innamorato di lei, ma la famiglia si è opposta al matrimonio e sa che cosa fecero? Decisero di fuggire, ma furono scoperti e ricondotti indietro. Fu la signorina Eliza a scoprirli. Io credo che sia invidiosa e adesso lei e la sorella vivono insieme come cani e gatti, bisticciando di continuo. Che ne è di John Reed? Oh, non si può dire che dia a sua madre molte soddisfazioni. Lo misero in collegio, ma fu bocciato, si dice, mi pare. I suoi zii avrebbero voluto che studiasse legge, ma è un giovane così dissipato che non ne caveranno mai niente di buono, temo. Che aspetto ha? È alto e alcuni lo giudicano un bel giovane, ma ha le labbra così grosse. E la signora Reed? È sempre robusta e di viso si conserva bene, ma mi sembra inquieta, scontenta. La condotta del signor John la preoccupa, spende troppo denaro. È stata lei a mandarti qui, Bessie? Oh no, ma è tanto tempo che desideravo rivederla, signorina, e quando ho saputo che era arrivata una sua lettera e che stava per trasferirsi altrove, mi sono decisa a mettermi in viaggio per venire a salutarla prima che andasse troppo lontano. Temo, Bessie, che il mio aspetto ti abbia delusa, dissi ridendo, poiché mi ero accorta che lo sguardo di Bessie, sebbene affettuoso, non esprimeva davvero ammirazione. No, signorina Jane, non proprio. Lei è carina e si presenta come una signora. Non mi aspettavo di più, perché non era una bellezza da piccola. Sorrisi alla franca risposta di Bessie. Sentivo che era giusta, ma confesso che non rimasi indifferente al fatto che non fosse lusinghiera. A 18 anni non vecchi, non desideri piacere, e la convinzione che il nostro aspetto non potrà secondare questo desiderio provoca un sentimento che non è certo di soddisfazione. Ma lei è intelligente e certo anche istruita, continuò Bessie a mo' di consolazione. Che cosa sa fare? Sa suonare il piano? Un poco. Ve n'era uno nella stanza. Bessie la perse e mi pregò di suonare qualche cosa. Suonai un paio di valzer ed ella ne fu incantata. Le signorine Reed non suonano così bene, esclamò con entusiasmo. L'ho sempre detto che in quanto ad istruzione lei le avrebbe sorpassate. Sa anche disegnare? Ecco, uno dei miei quadri là sopra al caminetto. Era un paesaggio all'acquarello e ne avevo fatto dono alla direttrice, quale ringraziamento per la sua benevola intercessione in mio favore presso il comitato. Ella l'aveva fatto incorniciare e mettere sotto vetro. È splendido, signorina Jane. Il maestro di disegno delle signorine Reed non potrebbe dipingerne di più belli, quanto alle signorine non ne sarebbero mai capaci. E ha imparato anche il francese? Sì, beh, sì, lo leggo e lo parlo. E sa ricamare in bianco e a colori? Sì. Oh, lei è proprio una dama, signorina Jane. Sapevo che lo sarebbe diventata. Si farà strada anche senza l'appoggio dei parenti. Ma volevo chiederle una cosa. Ha mai avuto notizie da parte della famiglia di suo padre, gli Eyre? Mai. Ebbene, ricorderà che la signora diceva sempre che erano poveri e miserabili, e può darsi che poveri lo siano, ma credo che sia gente fine non meno dei Reed. Un giorno, circa 7 anni fa, venne a Gateshead un certo signor Eyre e chiese di vedere sua nipote. La signora rispose che lei era in collegio a 50 miglia di distanza e quel signore ne fu desolato perché non poteva trattenersi. Era in procinto di partire per un paese lontano e il bastimento salpava da Londra il giorno dopo. Aveva l'aspetto di un vero gentiluomo e credo che fosse il fratello di suo padre. Per quale paese partiva Bessie? Per un'isola a migliaia di miglia da qui, un'isola dove fanno il vino, così mi ha detto il maggiordomo. Madeira, suggerì. Sì, il nome è proprio quello. E allora partì? Sì, non rimase in casa che qualche minuto. La signora fu molto altezzosa con lui e dopo lo chiamò un basso commerciante. Mio marito pensò che fosse un mercante di vino. È molto probabile, dissi, o forse impiegato o agente di un mercante di vino. Beh, sì, Dio, ci intrattenemmo ancora per un'ora a parlare del passato, poi ella dovette lasciarmi. La vidi ancora per qualche minuto il mattino dopo a Loughton, mentre aspettavo la diligenza. Ci separammo definitivamente sotto l'arco che portava allo stemma dei Brocklehurst. Lì ognuna prese la sua strada. Ella si incamminò verso il poggio di Lowood, in cima al quale passava la carrozza di posta che doveva ricondurla a Gateshead. Io salii sul veicolo che mi avrebbe condotta verso i miei nuovi doveri ed una nuova vita, nei dintorni a me sconosciuti di Millcote.